Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Abbiamo cambiato un po' l'ordine dei fattori, se vogliamo, non è esattamente il momento del last minute, ma gli aspetti asincroni ci sono. Beh, del resto, cambiando l'ordine dei fattori, si dice, però il Breakfast Club si porta divulgatore di appuntamenti, speriamo importanti, perché l'intersezione tra musei civici di Bologna e la notte europea dei ricercatori, portata nel last minute, sarà domani venerdì 29 settembre e prevede 5 appuntamenti in sedi espositive tra ovviamente le più importanti e particolari della nostra città, insieme a questa realtà di pratica e di aspetto concreto, se vogliamo, per quanto riguarda l'insieme d'espressione. E dicevo di un aspetto asincrono, mi scuso perché questo nostro dialogo che ho avuto con Daniela Dalla del Servizio Educativo e Mediazione Culturale dell'Istituzione Bologna Musei, che ringrazio, è avvenuto in serata, quindi la conversazione inizierà con un buonasera. L'ho lasciato però perché del resto è la notte europea dei ricercatori. Sentiamo le sue parole in presentazione. Buonasera, grazie per l'invito. Sì, in occasione della notte europea dei ricercatori, in programma venerdì 29 settembre, i musei civici propongono 5 appuntamenti dedicati alla ricerca. Gli eventi iniziano già dal mattino. Il Museo della Musica proporrà una giornata di studi dedicata a un interrogativo della storiografia musicale ancora aperto, ovvero se davvero esistita una scuola di canto bolognese. La giornata di studi avrà luogo dalle 10.30 alle 18.30 presso la sede del museo in Strada Maggiore 34. Alle 17 si terrà invece l'evento I segreti dei documenti, ultime scoperte dal Museo del Risorgimento, in Piazza Carducci 5. L'incontro sarà in questo caso occasione per presentare alla città il grande lavoro di revisione delle schede descrittive degli oggetti del museo. Lavoro che può sembrare apparentemente noioso, ma che in realtà è invece in grado di svelare molti particolari inediti sugli oggetti e anche molte storie interessanti. Altri eventi invece si svolgeranno in fascia serale con apertura straordinaria delle sedi interessate. In occasione della notte europea dei ricercatori, il Museo Morandi propone l'attività di laboratorio aperto a cura della restauratrice Mariella Agnani, dalle 19 alle 22, la sede in via Don Minzoni 14. La restauratrice durante l'incontro offrirà ai visitatori un'opportunità esclusiva, cioè quella di osservare da vicino con un microscopio stereoscopico alcuni particolari delle tele di Morandi e quindi anche alcuni aspetti della sua tecnica pittorica. Il Museo Civico Archeologico via dell'Archiginnasio 2 propone alle 19.30, 20.30 e 21.30 delle visite speciali al museo nell'ambito dell'iniziativa Lavori in corso, nuove luci sulle collezioni degli studi di giovani ricercatori. Anna Serra, assegnista di ricerca dell'Università di Bologna, e Alessandro Galli, dottorando dell'Università di Pisa, guideranno i visitatori alla conoscenza delle sezioni dedicate alla collezione egiziana e alla Bologna etrusca, soffermandosi in particolare sui risultati delle loro ricerche, che hanno affrontato aspetti molto interessanti in ambito rituale ed antropologico. Alle ore 20.30 il Museo del Patrimonio Industriale in via della Beverara 123 invece proporrà un incontro alla scoperta del paraporto del battiferro in 3D, metodologie avanzate di rilievo e digitalizzazione per nuove prospettive di gestione e fruizione. L'incontro è realizzato in collaborazione con l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica Ambientale e Materiali dell'Università di Bologna. Dopo una breve visita guidata sarà illustrato il lavoro di rilievo aerofotogrammetrico con drone unito al rilievo laser scan, l'impianto oggi esistente e la successiva restituzione in 3D con la possibilità di navigazione dell'impianto in realtà virtuale. Per tutte le informazioni in merito a questi appuntamenti vi invito a consultare il sito www.bologna.it. Grazie Daniela Dalla dei Servizi Educativi e Mediazione Culturale dell'Istituzione Bologna Musei. A parte il buonasera, ma siccome a riguardo la Notte Europea dei Ricercatori, intanto saluto i passeggeri in decollo dal Marconi di Bologna che stanno appunto sorvolando il nostro studio sperando di non creare disturbi con il Breakfast Club. Ricordo che l'appuntamento con la Notte Europea dei Ricercatori sarà domani, venerdì 29 settembre, con questi 5 appuntamenti. A breve ci sarà anche il podcast a vostra disposizione. Bisogno di piste di decollo, noi decolliamo sulle ali della tromba di Jukka Eskola, trombettista finlandese dei Five Corners Quintet. Nostri spostamenti per questa mattina da Modena con SLF, la musica di Karsten Nicolai, per quanto riguarda l'ottava edizione di Smart Life Festival. L'opera di Tina Modotti a Palazzo Roverella fino al 28 gennaio 2024 e la musica invece di Francesco Berzatti. Nostro, anche noi abbiamo viaggiato e tornando a Bologna ricordiamo domani appunto l'incontro tra la Notte Europea dei Ricercatori con Musei Civici di Bologna. Siamo giunti al termine di questa ricca colazione in diretta, il Breakfast Club, quindi vi dà appuntamento a domani. Pubblicità a seguire di Pen Enciclopedico, poi avremo Liberi Dentro, la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, il grande rock con Andrea Gozza e Angela Zocco. E domani un altro appuntamento ricco con In Scena, si alza al sipario sui 103.1. Vi aspetto a colazione con il Breakfast Club. Grazie per l'attenzione, un caloroso e grande abbraccio dal vostro William Piana, mattiniere e mattinieri. Mi raccomando, domattina alle ore 7 il Breakfast Club sui 103.1. Ciao a tutte, ciao a tutti.